Galileo diede un'occhiata al cielo e disse: «Nella Genesi non c'è nulla di vero». Bel coraggio, non è roba da poco. Oggi queste eresie si diffondono come malattie. Che resta se cambia la scrittura? Ognuno dice e fa quel che gli comoda, senza aver più paura. Se certe idee fan presa, gente mia, cosa può capitare? Non ci saran più chierici alla messa, le serve il letto non vorran più fare. Brutta storia, non è cosa da poco. Il libero pensiero è attaccaticcio come un'epidemia. Dolce è la vita, l'uomo irragionevole. Perfino i cantastorie nei loro stornelli narravano lo scontro che si andava prefigurando tra l'antico sapere aristotelico e le nuove scoperte. Il nodo della questione vedeva essenzialmente contrapposte due scuole di pensiero. Da una parte i teologi, che si rifacevano alle antiche teorie aristoteliche, le quali sostenevano che la Terra era posta al centro dell'universo e che attorno ad essa ruotava tutto il creato. Dall'altra, Galileo Galilei, che sposava pienamente la teoria copernicana, la quale supponeva essere il Sole al centro dell'universo. Galilei, consapevole che quanto andava scoprendo e divulgando metteva in discussione il sapere millenario e si scontrava con i dogmi della Chiesa, ed essendo egli stesso uomo di fede, si batté per tener ben separati gli assunti scientifici dalle questioni di fede. La Chiesa però, sulla base delle sacre scritture, considerava la teoria eliocentrica e le altre teorie contrarie all'aristotelismo eretiche. Fu così che anche Galileo fu tacciato di eresia. Si arrivò al processo, alla condanna e alla celebre ritrattazione che lo vide genuflesso di fronte ai cardinali del Santo Uffizio con indosso una tunica bianca, simbolo di penitenza, costretto a rinnegare il lavoro di una vita intera, vanificando così la sua battaglia per l'indipendenza della ricerca scientifica, pronunciare la sua abiura. Io, Galileo, dall'età mia d'anni 70, inginocchiato avanti di voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, giuro che sempre ho creduto, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che predica e insegna la Santa Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo santo ufficio, dopo d'essermi stato con precetto dagli stesso intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che il Sole sia al centro del mondo e che non si muova, e che la Terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi difendere né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d'essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, sono stato giudicato sospetto d'eresia, cioè d'aver creduto che il Sole sia centro del mondo e immobile, e che la Terra non sia centro e che si muova. Pertanto, volendo io levare dalla mente delle eminenze vostre e d'ogni fedel cristiano questa sospizione da me concepita, con cuore sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto gli suddetti errori e eresie, e giuro che per l'avvenire non dirò mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa avere di me simil sospizione. Ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d'eresia, lo denunzierò a questo santo ufficio. 22 giugno 1633. Io, Galileo Galilei, ho abiurato come di sopra. Mano propria.